L'ospite di questa sera per parlare di letteratura per l'infanzia è Angelica, libreria Vicolo Stretto nel centro storico di Catania, una libreria indipendente che frequentiamo sempre con molto piacere, e con lei una chiacchierata appunto su che cos'è la letteratura per l'infanzia. Prima di tutto, appunto, quali età comprende la letteratura per l'infanzia? Dai 0 ai 3 anni, ai 5? Qual è? Ciao a tutti, allora la distinzione la possiamo fare tra gli 0-3, i 4-6, 6-8 e poi andiamo con i ragazzi con altre distinzioni. La letteratura per l'infanzia di base nasce quando nasce il bambino o la bambina, perché nel momento in cui tu dai un oggetto che abbia la forma di un libro, quello è letteratura per l'infanzia. Nel momento in cui il bambino o la bambina hanno in mano i libri stoffa, quella già è letteratura per l'infanzia, perché li stai dando in maniera indiretta, in maniera anche giocosa, la bellezza di tenere in mano un libro. Quando a me capita spesso che mi chiedono: ah, vorrei un libro a questa età qua. Anzi, questi mesi, e io mi confondo perché il mio cervello deve andare a farsi il calcolo di i mesi, quanto corrispondono agli anni. Ma la cosa è che un libro per un bambino di 3 anni può andare bene anche per un bambino di 4, 5, 6, dipende ovviamente che tipologia, perché se è un albo illustrato è ovvio che è molto più versatile. Può andare bene anche per un adulto. Ci sono degli albi illustrati che vengono pubblicati per bambini, e qua ora arrivo a un punto ben preciso, vengono pubblicati per bambini, ma di fatto sono libri per gli adulti. Quando ho detto arrivo al punto, è proprio per questo, perché spesso e volentieri nella letteratura dell'infanzia contemporanea non si pensa con la testa di un bambino o di una bambina, si pensa con la testa di un adulto. Cosa piacerebbe all'adulto che il bambino o la bambina leggesse? E quindi andiamo con una lingua molto più sintetica, più asciutta, più semplice. Ma il bambino e la bambina non hanno bisogno di semplicità, anzi, si divertono nella complessità, perché se gli diamo un termine, loro si divertono a dire che vuol dire, cerchiamola sta parola, e apprendono molto di più. Io ho fatto un corso insieme a Maria Carmela, che è la mia socia, di formazione sulla letteratura per l'infanzia, e l'insegnante, la prima cosa che ci disse era proprio questa: ricordatevi che i bambini hanno bisogno di chiamare il mondo. L'albero lo puoi chiamare albero, ma lo puoi chiamare anche con i vari nomi di alberi. Ma se non glielo dice il bambino, se dici è troppo complicato, rispetto a cosa? Rispetto alla tua divisione, ma non alla visione del bambino, che il bambino è tabula rasa. Esatto, un sistema di proiezione che spesso e volentieri non ha senso, anche Esatto, perché, sì. tra l'altro, appunto, parliamo di uno dei settori del mondo dell'editoria che funziona meglio, che comunque è quello più florido, perché è oggettivo, è più facile trovare ormai una libreria indipendente che specifica su ragazzi e bambine che non generalista, proprio perché funziona, perché genitori e via dicendo comprano parecchi libri per i propri bimbi e bimbe. Quindi stavamo dicendo, no, quali sono le sottocategorie? C'è l'albo illustrato, c'è quello scritto, c'è il pedagogico, il libro game, cioè, ce ne sono Ce ne sono diverse vari, sì. che però vanno bene per tutte le fasce di età, secondo appunto la complessità del testo scritto. Ovviamente, perché c'è il libro stoffa che va per i primi mesi, per esempio, di vita, il libro Il bagnetto, che sono dagli 0 a 1 anno più o meno, ma rientrano comunque nella fascia 0-3. Cioè, la fascia 0-3 racchiude i libri per i bambini appena nati fino agli albi illustrati per 3 anni. Ovviamente l'albo illustrato in questione ha, per esempio, molta più illustrazione che parole. dai 4 in poi, quindi 4-6, abbiamo più parole corrispondenti a un'illustrazione, e poi dai 6 in poi, ovviamente, andiamo con proprio la narrativa per ragazzi, perché già alle prime letture, per me, forse sbaglio, ma per me già sei un lettore, sei una lettrice, quindi io parlo con te. Parlo con te anche con i bambini di un anno e mezzo, cioè sono loro che devono scegliere, perché sono loro, cioè la scelta anche del libro è importante. Cioè non scegliere tu, fai scegliere a loro. Gli 03, tra l'altro, sono la categoria che io preferisco di più. Perché, a parte il fatto che ritorni a essere bambino tu proprio, perché ci sono tutte le caselline, le cose da toccare, e sono i più belli, sono fatti anche di materiale molto più, con più attenzione, perché sono bambini piccoli che li tengono in mano, quindi c'è poca plastica, gli inchiostri sono determinati inchiostri, non sono inchiostri tossici, quindi se il bambino lo mette in bocca non succede nulla. Per esempio, c'è un libro, un albero illustrato che mi piace un sacco, che sono le verdure arrabbiate. Le verdure arrabbiate, allora, quando noi eravamo ragazzini, per farci mangiare la verdura, i nostri genitori dicevano: pensa che i bambini dell'Africa non hanno cibo. Questa cosa funzionava fino a una certa. Adesso c'è questo albero illustrato che è bellissimo, che le verdure si arrabbiano perché non vengono mangiate. Quindi quello che tu dici è: non solo mi hai raccolto, ma non mi mangi. Quindi io mi arrabbio, ti sequestro fin quando tu non mi mangi. Veramente è stupendo. Ovviamente, come classici della letteratura per l'infanzia, abbiamo da Potter, che era un'illustratrice, è una scrittrice di letteratura per l'infanzia, considerata più o meno, se non ricordo male, anni 50-60 dovrebbe essere, se non ricordo male. E poi c'è il Gruffalò, perché il Gruffalò fa parte del classico della letteratura per l'infanzia. Gruffalò è Gruffalò. Poi ci sono le classiche fiabe, favole, tutto quello che concerne il classico come per i bambini molto piccoli. Per i bambini invece un po' più grandicelli, ci sono dei classici, vedi Alemagna come illustratrice, con Ciccia Pelliccia, vedi anche, ora devo andare allo scaffale perché a volte non me ne ricordo manco a memoria, per la prima, le prime letture o comunque già una letteratura medio-alta, quindi già siamo terza, quarta elementare, abbiamo Roald Dahl, che ormai è un classico della letteratura, poi arriviamo a Harry Potter, cioè poi andiamo ad alzare il livello. La cosa è che, consiglio per i genitori, non abbiate paura a dare le parole in mano ai vostri figli, perché quelle parole che gli date in mano saranno le parole che useranno poi da adulti, e più parole hanno per chiamare una cosa, più avranno una padronanza della lingua italiana molto più vasta anche di me che faccio la libraia, quindi figuriamoci, ma ci sono veramente un sacco di libri ed è effettivamente, come dicevi appunto tu, il reparto del mondo editoriale, insieme ai manga e ai fumetti, quello con il range di vendita molto più ampio, In perché crescita e tutto, è sempre esatto. in crescita. Tra l'altro leggevo, io che di genitorialità e pedagogia ne so poco, però due cose leggevo in questi giorni. Uno, quello che dicevi tu sul linguaggio, no? Che viene consigliato appunto di non semplificare mai con le bimbe e i bimbi il linguaggio, proprio perché bisogna dargli più strumenti possibile. E l'altro, che la letteratura per l'infanzia nasce come categoria però nell'epoca moderna, perché prima appunto non veniva, era letteratura appunto, cioè non c'era questa. Non c'era questa distinzione. Esatto. Sì, se consideriamo che Pinocchio non nasce come letteratura per l'infanzia, ma Pinocchio è un libro, un classico della letteratura per l'infanzia. Ma Pinocchio non fu classico, era letteratura, appunto. Cioè, fino a, credo, se non ricordo male, è metà dell'Ottocento, la letteratura per l'infanzia era detta e non detta. Però i bambini leggevano quello che leggevano tutti gli altri, cioè non c'era questa cura, questa protezione della lingua, dei messaggi, delle storie. Non so se in bene o in male, devo essere sincera, perché ci sono delle storie, per esempio la letteratura nordeuropea ci insegna che loro, per esempio, non hanno filtri, cioè parlano della morte in maniera, fa parte della vita. Una nasce, cresce e muore. Quindi loro hanno molto questa cosa della morte, dei cimiteri, ma per i bambini, e tu dici, aspetta, ma in che senso stai ambientando un libro dentro un cimitero? Per noi è impensabile che un ragazzino o una ragazzina legga una cosa del genere a 7 anni. Per loro è normale. È uscito un libro che ho letto qualche mese fa che si chiama Fiabe criminali, che è un saggio che va proprio a fare l'analisi delle fiabe classiche, appunto, che sono piene di incesti, violenza, morte, omicidi. Ci sta proprio, appunto, Sì, cioè sì. tutto questo è molto, appunto, fanno parte, appunto, come dicevi tu, della produzione nord europea, ma anche dello stesso pifferaio magico, no? Che si comporta come un vero e proprio pezzo di merda, Sì, James sì, Bond, sì. diversamente è un Ma diciamo che mostruoso. anche Cenerentola, tanto carina non Cenerentola, era, appunto, no? ecco. Nel senso che, cioè, ci sono, perché proprio per questo motivo non c'era un discorso di protezione, si usava attraverso l'immaginazione Certo. spiegare com'era il mondo, no? Si usavano delle metafore per spiegare com'era il mondo, però di filtri ce n'erano molti meno C'erano rispetto molti meno, sì, ad oggi. assolutamente, assolutamente. Ma tra l'altro la cosa è che i libri, poi quando iniziò ad esserci l'illustrazione per i bambini, anche lì all'inizio non è che c'era questa protezione, cioè io ti illustro il mondo per com'è, cioè è inutile che io ti dico no, il mondo è bello, fiabesco, è tutto felice e contenti, e poi quando tu andrai nel mondo troverai i rovi, troverai la strada sterrata, quindi non potrai camminare bene. Io ti illustro il mondo spiegandotelo però, cioè ti accompagno in questa cosa. Quando parliamo di lingua, per esempio, mi riaggancio al ti accompagno, anche se tu non la sai, tu adulto non sai cosa vuol dire quella parola, è bello scoprirla. Scoprirla insieme a una nuova mente, a una mente fresca, giovane, rispetto a noi che diciamo che qualche annetto in più e capelli bianchi ce li abbiamo. Quindi il bello anche della lingua, della nostra lingua, è che è vastissima. Ci sono una quantità di parole che, ne, cioè, non tutte, ci sono persone che le sanno, ma persone che sanno forse un quarto di quello che sono le parole della lingua italiana. Quindi è bello scoprirle di nuovo, anche perché grazie alle traduzioni. Ovviamente ci sono una ricercatezza anche della parola giusta nel punto giusto, perché deve risuonare e deve essere quanto più verosimile alla lingua originale. Quindi, ma mio figlio è piccolo. E vabbè, non ti preoccupare che non si scandalizza, non si spaventa, anzi, si divertirà. Certo, non darò mai un albo illustrato per un ragazzo o una ragazza di 7-8 anni a un bambino di 3. Ma un albo illustrato per un bambino o una bambina di 4-5 a un bimbo di 3, potrei, dipende ovviamente dalla tematica, ma potrei tranquillamente consigliarlo. Sì, quello assolutamente. Le verdure arrabbiate è una di quelle. A proposito di temi, stavo pensando, no? Quanto ad esempio la contemporaneità, no? Penso ai temi di genere o di razza, che ultimamente, no? Da 2, 3 o 4 anni sono stati riscoperti e c'è molta produzione in quel senso, quanto questo di riflesso coinvolge anche la letteratura per l'infanzia, se la coinvolge. Allora, la coinvolge, ma la coinvolge in maniera più soft. Non è così marcata come nell'editoria per adulti. Cioè, la parte del genere, la parte dell'inclusività, della comunità, è fatta in maniera più soft. Cioè, tutti i libri hanno un insegnamento, cioè tutti i libri hanno questo sottotesto. Poi ogni bambino, ogni bambina apprenderà il sottotesto che Trova il vuole. suo, certo. Ovviamente, se vogliamo lavorare sugli stereotipi, ovviamente c'è una sezione, ma già siamo per i più grandi, cioè già siamo dai 6 in poi. Per i bambini piccoli, non c'è proprio specifico, ma in tutti i libri comunque c'è una libertà di genere, c'è una libertà di inclusività. Quindi vedrete molto più spesso bambini di vari colori, cioè il ragazzino, il disegno del bambino o della bambina orientale, quello asiatico, quello europeo, quello africano. Perché nell'immaginario ovviamente dei bambini abbiamo, c'è la vastità, perché loro lo guardano e lo vedono, quindi il loro mondo rispecchiato in un'illustrazione. Guarda, l'ultimissima cosa, secondo te quali sono le migliori case editrici italiane per quanto riguarda appunto il settore? Perché ce ne sono alcune che fanno un lavoro secondo me ottimo, da quel poco che conosco, però quali sono secondo te le migliori, cioè chi fa il lavoro che a te piace di più? Ecco, mettiamola così. Allora, quello che mi piace di più è assolutamente Topi Pittori, Uomo Nero, perché ha una sezione proprio sulla letteratura per l'infanzia, per chi ha delle disabilità motorie e non solo, Iperborea per la letteratura nord europea per l'infanzia e assolutamente M Edizioni. Quella che poi pubblicò all'epoca e Adelphi, anche perché Adelphi pubblica Il Gufalò. Ah certo, è vero. No, Però no, no. scusami, Il Gufalò viene pubblicato da M Edizioni, I Mostri Selvaggi, che viene pubblicato da Adelphi. Esatto, che è un Errore. altro Bellissimo. classicone, sì, che è bellissimo, anche quello nasce un po', ce lo comprano più gli adulti che non Sì. per i bambini, però no, io anche l'ho comprato tempo fa perché appunto è un classicone. Ora, l'ultima battuta la lascio a te, se ci siamo persi qualcosa in questa chiacchierata, se volevi aggiungere qualcosa. Ecco, una cosa che non abbiamo detto è che quando andate in libreria, un consiglio che vi do è lasciateli liberi, cioè non li osservate, non li guardate, fateli scegliere quello che vogliono e poi sedetevi insieme a voi se reputate opportuno che quel libro che hanno scelto non è un libro adatto alla loro età, ma fateli scoprire proprio lo scaffale. Perché nella manualità di scegliere il libro, sfogliarlo, leggerlo, iniziare proprio ad avere un rapporto one to one è perfetto. Ringraziamo Angelica, libreria Vicolo Stretto, Catania. Io la via non la so, ma siamo proprio nel centro di Catania, a due passi da Villa Bellini. Grazie Angelica. Grazie a te. Ciao.